buongiorno. Ah, che fuori, oggi è in ritardo. E quanti dici? Quando arriva? Bellina, ma 5 euro la stampa, la e tu ma ti parli della smart, avanti il numero di telefono, mi dico che bello, meglio davanti, la macchina bianca è normale, ora viene elettorale, no, se lo feci così 5 euro gli fai la foto, vai lì dove le stampino, ti ci metti le chiedi, sono belline ora che viene le foto davanti, 5 euro comprato da me, con foto ve l'ho presa, uno di quei supermercati da poco. E ci vai con la tua maglia, ci vai con un grembiule, ci vai con una camicetta. Vicino sono arrivata con piedi che sembravano figli. E poi fai la maglietta. Ma tu la devi scalare con la mangiare, ce l'hai. Va bene, vai, ok. Ciao. Che buono. No, dice, bella giornata già. Questa sera niente. Non hai nada. Però è scelto. Sicché tutto questo è stato diviso già, perché ha mangiato tutta quella roba lì e gliel'ho dato da portarmi. Ha detto che c'ho detto questo, è stato il canoto. Oddio, ti immagino anche te. È una cosa descrivibile. Oggi sono oggi tu la scheletto. E stasera vedo che fanno il padre che fa oggi però domani 15 non so io domani che questa è la seconda cassetta, ora viene la Francesca e se ne prende. No, però ho detto un po' di chili, sì, vabbè. Chi? Lascia sta, perché questi sono i cisoli. Io ho detto basta, non sono vendendo una pancia. Capisco bene. Ma che faccio? Io ho dato il video. Sì, ce l'ho a triglie. La grande piccola. Queste 10. Quante ne vuole? E lei c'ha, guarda. Ne voleva. C'è Sugarelli a 5 euro al chilo. Ma? Miliardario, proprio americano. Bimbo. Ciao, come va? Guarda che triglione. C'è dei ben naselli, le viste? Naselli, triglie. Ma che triglione, forza. Ogni tanto. Se le do anche letto. Quando c'è un